شكراً شكراً شكراً مرحبا. Scusate, ho sbagliato, se ho fatto la guerra. Mi sembrava, mi pareva, credevo che. Scusate, ho sbagliato, se sono morti in 100.000. Mi sembrava, mi pareva, credevo che. Scusate, ho sbagliato, se abbiamo violentato uomini e donne. Mi sembrava, mi pareva, credevo che. Cercavamo le prove, le armi di distruzione. Ci sembrava, ci pareva che. Shukran, shukran, shukran, marhaba. Shukran, shukran, shukran, marhaba. Ci siamo sbagliati, che ci possiamo fare? Capita a tutti di sbagliare. Shukran, shukran, shukran, marhaba. Shukran, shukran.